Gli uomini più delle donne al centro più che al nord e al sud Italia. L'identikit dell'evasore fiscale o della propensione all'evasione tracciati dal Ministero dell'Economia ci consente di individuare chi sono i furbetti del fisco e dove agiscono. Con un'avvertenza, si tratta di medie e si sa che le medie sono da maneggiare con cura. In ogni caso, in totale, nel 2010, il tasso medio di evasione fiscale si è attestato al 13% del reddito dichiarato. Al fisco vengono sottratti in media oltre 2.000 euro a contribuente. Evade in media il 17,3% degli uomini contro il 9,9% delle donne. Nelle regioni centrali l'evasione fiscale vale il 17% del reddito, al nord il 14,8%, al sud poco meno dell'8%. E se è vero, come spiegano all'Agenzia delle Entrate, che nel sud Italia si riscontrano più casi di evasione fiscale, è altresì vero che nel settentrione i volumi sono immensamente più grandi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.